Allora, noi abbiamo voluto insomma iniziare questa giornata di domani che, come sapete bene, insomma chi ci conosce bene lo sa, il 25 aprile è un po' il nostro giorno ovviamente, noi essendo un istituto storico che nasciamo appunto come istituto storico della Resistenza bolognese, noi ovviamente conserviamo tutto il patrimonio che ha in qualche modo a che fare appunto con i 20 mesi che vanno dal settembre del 43 all'aprile del 45 appunto legati alla Resistenza locale bolognese. Qua invece abbiamo deciso di iniziare con una storia resistenziale che è ovviamente nazionale, che è ovviamente regionale, ma che è un pochino più distante da Bologna, che è appunto la storia dei Fratelli Cervi, e lo facciamo con due ospiti d'eccezione che aspettiamo domani alle 10:30, Sala Berti, che è la nostra ex sala refettorio che abbiamo intitolato lo scorso dicembre al nostro ex presidente Francesco Berti al Noir di Veliv, partigiano Checco, e lì presenteremo appunto la proiezione del documentario I miei 7 padri, e lo faremo appunto, come ho detto, con due ospiti d'eccezione che sono la regista, che si chiama Liliana Davì, e il protagonista di questo documentario, che è Adelmo Cervi, che è il figlio di Aldo Cervi, che è uno dei 7 famosi fratelli uccisi al poligono di Tiro di Reggio nel dicembre del 1943. Il film di fatto racconta la storia dei 7 fratelli attraverso gli occhi di Adelmo e soprattutto del suo rapporto con la memoria di un padre particolare, di un padre partigiano appunto, che era Aldo, di un padre che lui di fatto non ha praticamente mai conosciuto. È quindi un lutto privato che però viene messo a disposizione di quella che possiamo definire a tutti gli effetti una memoria pubblica, è una sua personale ricerca di un senso a questa storia, di un'appartenenza a un determinato tipo di storia, a una terra, in quello che possiamo definire una sorta di cortocircuito, tra virgolette, tra i suoi ricordi individuali e invece una storia collettiva che, come dicevo all'inizio, è una storia sia regionale ma soprattutto una storia nazionale, una storia drammatica. Sarà presente quindi sia la regista, come detto, che il protagonista Adelmo Cervi, che poi sarà accompagnato dal libro che ha scritto nel 2014, che è il libro che poi ha ispirato questo documentario, e Adelmo Cervi farà anche un firmacopia, quindi sarà la possibilità sia di vedere questo documentario, di conoscere Adelmo Cervi, di conoscere la regista e di acquistare il libro e di averlo ovviamente firmato da questo protagonista di questa storia drammatica di quasi 80 anni fa, di più di 80 anni fa, una storia che però ancora oggi insomma ha un significato molto importante. Poi, andando avanti durante la giornata, il pomeriggio torneranno le passeggiate partigiane, ovviamente sperando nel buon tempo, insomma. Esattamente, non so se esiste una danza del sole, ma la faremo probabilmente, perché ovviamente questa è l'unica iniziativa che di fatto è legata a questo tempo, che è tutto purché un tempo di aprile, diciamo. Le passeggiate partigiane ormai sono una nostra piccola tradizione, le facciamo da tanti anni e hanno sempre un buon riscontro di pubblico, e ne faremo 3, una alle 15, una alle 16 e una alle ore 17, e partiremo dal Quadriportico al Civico 20, davanti alla Sala Berti, dove qui faremo volutamente il contesto storico dei mesi che precedono appunto il giorno della scelta, che è l'8 settembre, e l'inizio appunto dei giorni successivi, appunto di quei 20 mesi che si concluderanno a Bologna con la liberazione della città il 21 aprile del 1945. Faremo qui da noi il contesto, poi in questa passeggiata che si concluderà al Sagrario di Piazza del Nettuno, dove riporteremo alcune biografie che sono appunto presenti nel Sacrario, sia storie di uomini, storie soprattutto anche di donne che hanno fatto la Resistenza. In questo percorso poi toccheremo alcuni punti legati ai bombardamenti, quindi ci fermeremo in Piazza Malpighi e vi parleremo dei bombardamenti, ci fermeremo all'attuale Bassotto, al Civico 8 di via Ugo Bassi, dove parleremo di alimentazione, e poi in via Calcavinazzi, dove parleremo dei GAP, parleremo delle varie operazioni partigiane, delle battaglie di Portalame, insomma tutto quello che fa, ovviamente in un'ora di camminata, quindi non sarà ovviamente nulla di esaustivo, però ci teniamo a portare appunto le persone che vorranno fare con noi questo percorso, ricostruire questa storia, che è una storia della nostra città, appunto attraverso i luoghi, della nostra città. Ecco, questa è una cosa a cui teniamo molto e che vediamo che negli anni è molto partecipata sia dai più grandi che anche dai più piccoli. Insomma, abbiamo avuto negli altri anni anche delle intere famiglie con bambini di 5-6 anni che ci seguivano appunto in questa camminata storica. Poi ci sarà anche la mostra nella sala proiezioni, con una selezione di documenti che raccontano l'occupazione tedesca della città attraverso tanti documenti d'archivio, appunto. Esattamente, quella parte l'abbiamo intitolata, diciamo, la Resistenza quotidiana, ovviamente un gioco di parole, perché parte dei documenti che mostreremo appunto sono quotidiani, nel dettaglio sono il Resto del Carlino, l'Unità e Rinascita, attraverso del materiale che noi conserviamo nel nostro archivio. Come avevo detto all'inizio, noi diciamo appunto siamo un istituto storico della Resistenza, il nostro obiettivo iniziale primario era quello appunto di conservare la documentazione dei 20 mesi resistenziali. Appunto vogliamo aprire il 25 aprile al nostro pubblico, a quello che può diventare anche, perché no, ampliare il nostro pubblico, parte del nostro patrimonio quindi sia documentale, di materiali come ad esempio i quotidiani, come ad esempio le schedine partigiane dell'ANPI che noi conserviamo, ma anche materiale multimediale. Faremo vedere degli estratti, degli stralci, insomma, di documenti che conserviamo, appunto legati ad esempio a, non so, adesso cito i primi due che mi vengono in mente: Giovanni Casari, che era un cinematore bolognese che aveva ripreso alcuni dei momenti più significativi della storia bolognese tra il 1943 e i primi anni del dopoguerra. Faremo vedere uno stralcio di quello che è il funerale del fascismo, che era stato celebrato il 25 luglio del 43, e poi mostreremo ad esempio anche un'intervista al nostro ex presidente Francesco Berti, dove in occasione del 50° anniversario dell'istituto aveva ovviamente parlato della sua storia, delle sue memorie, e riproporremo due dei nostri voli di farfalle dedicati in questo caso a Teresa Noce ed Emma Casari. E voli di farfalle, per chi non lo sa, è una rassegna di video che pubblichiamo in collaborazione con l'Ufficio Pari Opportunità, che sono dedicati a vita di donne che hanno combattuto nel corso della loro vita appunto per far sentire la propria voce, per far emergere i propri diritti, la propria arte, il proprio talento. E lo pubblichiamo solitamente in occasione della Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza contro le Donne e per l'8 marzo, e quest'anno ovviamente lo riproponiamo. Due biografie che si legano ovviamente alla storia della Resistenza, lo pubblichiamo anche il 25 aprile, appunto domani. È un ultimo che facevamo tanti anni fa e che riproponiamo quest'anno, inizia alle 16, siamo sempre in Sala Berti e ci saranno una serie di letture che partiranno appunto da memorie di partigiani, da staffette, da testimoni della Resistenza. Ad esempio leggeremo alcuni stralci di Il Sole Nero di Gina Negrini, della staffetta Gina Negrini, leggeremo stralci di Viaggio con l'amico di Francesco Berti e proporremo anche alcuni estratti dei grandi classici della Resistenza Nazionale come Pavese, Fenoglio, Elio Cicchetti e Il Suo Campo Giusto. Tanto per concludere, insomma, questo programma che è un po' molto variegato, ecco.